Pablo Picasso, raccontato da Marco Carminati. Picasso è stato l'artista che più ha cambiato il suo stile negli anni di percorso della sua opera pittorica soprattutto. A un certo punto, dopo aver esaurito la fase cubista, tra l'altro sviscerandone tutte le possibili varianti, Picasso ha un'esperienza personale, incontra i balletti russi e ha la possibilità di fare un viaggio in Italia. Queste due possibilità si combinano in uno stile completamente nuovo. Il pittore cambia improvvisamente stile e, come si diceva allora, torna all'ordine, cioè torna alla figuratività dopo averla abbandonata con il cubismo e studia in particolare l'incredibile ricchezza e tradizione che viene per esempio dalla tradizione classica, quindi a Roma e in Italia guarda le sculture, ma guarda anche Renoir, guarda anche la tradizione di Cézanne ancora una volta, e quindi ricompone una pittura che è una pittura figurativa estremamente imponente, esuberante nelle forme. C'è un quadro fondamentale da questo punto di vista, che sono le donne che corrono sulla spiaggia del 1922, che si trova nel Museo Picasso di Parigi, che mette in evidenza appunto questa straordinaria capacità di voltar pagina improvvisamente dell'artista, di cambiare stile, di tornare alla figuratività, ma una figuratività piena di energia, di potenza. È la stessa energia e potenza che Picasso, come uomo, come amante, come politico militante del Partito Comunista, esprime in tutta la sua personalità. Quindi è un momento straordinario che apre Picasso al recupero della figuratività e che mette in luce una serie di cambiamenti che naturalmente ci saranno di lì a pochi anni, quando l'artista, insieme a questo ritorno all'ordine, recupera la lezione del cubismo e fonda questi due elementi, natura e cubismo, in un nuovo capitolo della sua incredibile vicenda figurativa. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it.